Quando poi saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio. E tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono. Ich mach so mir das su di noi. Vorrei parlarti di tutte quelle cose che ho mandato già in fumo. Dimmi dove sei, vorrei parlarti di tutte quelle cose che ho mandato già in fumo. Per colpa della solitudine, non l'ho mai detto, non l'ho mai detto a nessuno. Tranne che a te, questa sera sei bellissima. Ho mandato se lo sai che non è finita, abbracciami. E anche quando saremo stanchi, troveremo il modo navigare nel buio. E tanto è facile abbandonare. Vorrei parlarti di tutte quelle cose che si infrangono su di noi. Dimmi come stai, perché non parli, ora tienimi con te, la tua mano nel buio, guarisce la mia solitudine, non l'ho mai detto a nessuno tranne che a te, questa sera sei bellissima. Se lo sai che non è finita, abbracciami. Anche se questa sera sei poeticissima, questa vita ci ha sorriso e lo sai, non è mai finita, abbracciami. Abbracciami, abbracciami. Thank you.